Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera a tutti gli ascoltatori e benvenuti a Mr. Kilowatt. L'argomento di stasera tocca i nostri nasi ogni qualvolta gli passiamo vicino. Parliamo della depurazione delle acque reflue. La puzza che si sente, che di solito ci avvisa della presenza di un depuratore prima di vederlo con gli occhi, è dovuta al lavoro dei batteri. Sono questi batteri che prosperano decomponendo i contaminanti a purificare per l'appunto l'acqua. Tutto il processo avviene in grandi vasche dove i batteri in questione stanno, insomma, un po' come a Disneyland, prosperano e si riproducono a dismisura e i loro corpi si depositano sul fondo formando fanghi che in seguito vanno smaltiti. Il processo ha un costo energetico dovuto al pompaggio dei liquidi e gorgogliatori che servono ad immettere aria nelle vasche e soprattutto allo smaltimento dei fanghi. Ebbene, al CNR ISE, l'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pisa, hanno messo a punto un sistema alternativo decisamente più efficiente. In cosa consiste? Ce lo facciamo svelare dal professor Brunello Ceccanti, dirigente di ricerca del CNR ISE. Buonasera Brunello e benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, io e te, Brunello, ci diamo del tu perché ci siamo conosciuti qualche anno fa a Pechino e quindi, insomma, evitiamo la messa in scena. Ecco, prima di svelare il vostro trucco, chiamiamolo così, ti chiedo di spiegarci in poche parole come è fatto un classico depuratore di acque reflue. Benissimo, l'hai introdotto perfettamente tu nella scheda iniziale. Quindi si tratta praticamente di depurare acqua reflua, in questo caso di uso civile, urbano cosiddetta. Si tratta di spostare l'inquinamento da una fase dispersa, diluitissima, in una fase concentrata che tu hai definito propriamente come fanghi. Allora noi ci siamo occupati proprio di questi fanghi. Che sono anche tossici, almeno in parte, insomma, sono anche una roba da trattare con cautela comunque. Diciamo più che tossici, sono, diciamo, indesiderati nell'ambiente così come tale. Infatti le normative dicono di poterli gestire sia come, diciamo così, indirizzandoli a confinamento e a discarica, ma come anche riuso, in questo caso in agricoltura, per, diciamo, sfruttare il loro carico di nutrienti e quindi utilizzarlo a scopi benefici, in questo caso ad esempio miglioramento delle qualità dei suoli. Quindi ecco perché non vanno abbandonati nell'ambiente, ma vanno gestite, solo che la gestione impegna delle risorse economiche non indifferenti, in quanto è consolidato che rappresenta circa il 40 ma anche il 50% delle spese totali di gestione di un impianto depurazione, di depurazione, di un impianto classico di depurazione, e vanno trasportati, insomma, esatto, con costi che ho letto vanno, insomma, 80-100 euro a tonnellata. Questi fanghi, il loro trasporto, 100, anche 140, dipende, diciamo, da dove arrivano e dove vanno questi fanghi. Arriviamo a voi, qual è l'idea, come avete risolto il problema dei fanghi? Ogni impianto per legge ha dietro di sé dei letti di drenaggio di accumulo in fase di emergenza di questi fanghi quando non possono essere trasportati. Noi siamo riusciti a riadattare questi letti e a fare dei letti, diciamo, filtranti, drenanti. Accumuliamo i fanghi liquidi, diciamo, che contengono 1-1,5-2% massimo di solido sospeso, e in questi letti ci troviamo della ghiaia ma anche delle piante, una Phragmites australis, una specie, una cannuccia d'acqua, così una canna palustre comune si vede in giro, credo. Esatto, quelle che si vedono con quei pennacchietti al vento, no? A questo punto la pianta condiziona il letto attraverso il suo apparato radicale perché trasmette direttamente ossigeno dall'atmosfera all'apparato radicale. Lì crescono e si sviluppano quei microrganismi a cui tu ti riferivi. Loro sono in grado di accettare questo liquido, diciamo sporco, che contiene questo 1-1,5% di fango, e quindi se lo metabolizzano lentamente in maniera da non creare delle zone di fermentazione anaerobica e quindi quegli odori, no? Nauseabondi a cui tutti purtroppo siamo abituati in prossimità. Era una domanda che volevo farti, se puzzava anche meno. Mi dici di sì, insomma. Esatto. Sì, perché questi microrganismi sono un po' come dei filtri biologici, demoliscono il materiale organico ma trattengono anche gli odori, quindi in presenza di aria sappiamo benissimo che si instaura un processo di trasformazione in un qualcosa simile al terriccio e non, diciamo, fenomeni di fermentazione anaerobica tipici di ambienti anossici, tipo le paludi profonde, dove tutti sentiamo dei cattivi odori. Quindi dal punto di vista, diciamo, degli odori all'interno ma anche all'esterno dell'impianto siamo garantiti. Avete queste piante che catturano anche l'anidride carbonica e alla fine effettivamente voi ottenete terriccio, ma lo si può addirittura utilizzare in agricoltura? Sì, questo materiale che noi prepariamo può essere trasformato, e la legge già ne prevede, miscelato con questi residui vegetali e può essere, diciamo, utilizzato e riciclato come ammendante organico di qualità. In questo modo chiudiamo il ciclo di depurazione in termini economici, ecologicamente corretti, ma anche economicamente corretti, perché eliminiamo così tante di quelle spese di gestione tecnica. Trasformate quello che è un problema, questi fanghi da smaltire, sostanzialmente in una risorsa che ha anche un valore economico, questo terriccio, certo, che invece può essere valorizzato. Esatto. In termini economici, ma ti chiedo proprio un numero, più o meno quanto si risparmia? Senti, in termini economici, volendo stare molto approssimati, il dato che mi viene in mente è anche un 30% sulle spese di depurazione. Complessive. Rispetto alle forme di smaltimento, a quei 100-120 euro a tonnellata, sì, qua siamo a costo zero. Questo è importante. Dove si può intervenire con questo metodo? Bisogna ricostruire appositamente gli impianti con un design diverso o si può andare su quelli esistenti? Tutti gli impianti possono essere adattati a questo, perché occorrono delle superfici non, qui bisogna fare attenzione, estese come se si trattasse di una fitodepurazione, è un termine che ormai molti tecnici, ma anche... Cioè depurazione ad opera di piante, esatto, appunto. Richiede delle superfici enormi perché deve avere un flusso continuo, in questo caso noi ci possiamo permettere di accumulare in altezza il fango e non in estensione. Ecco. Va bene, grazie Brunello Ceccanti. Arrivederci, buona serata, grazie a voi. Bene, siamo in chiusura, Mr. Kilowatt torna domani alla stessa ora, parleremo di finanza, quanto rende investire in efficientamento energetico e che cosa fanno le banche. A domani, buona serata.